Il modo in cui le lumache citavano la macabra fantasia di nostra sorella ci spinse, mio fratello e me, a una ribellione, che era insieme di solidarietà con le povere bestie straziate, di disgusto per il sapore delle lumache cotte e di insofferenza per tutto e per tutti, tanto che non c'è da stupirsi se di lì Cosimo maturò il suo gesto e quel che ne seguì. Avevamo architettato un piano. Come il cavaliere avvocato portava a casa un canestro pieno di lumache e mangerecce, queste erano messe in cantina in un barile, perché stessero in digiuno, mangiando solo crusca, e si purgassero. A spostare le coperture di tavole di questo barile appariva una specie di inferno, in cui le lumache si muovevano su per le doghe con una lentezza che era già un presagio d'agonia, tra rimasugli di crusca, strie d'opaca bava agrumata e lumacheschi escrementi colorati, memoria del bel tempo dell'aria aperta e delle erbe. Quale di loro era tutta fuori del guscio, a capo proteso e corna divaricate, quale tutta rattrappita in sé, sporgendo solo diffidenti antenne, altre a crocchio come comari, altre addormentate e chiuse, altre morte con la chiocciola riversa. Per salvarle dall'incontro con quella sinistra cuoca e per salvare noi dalle sue imbandigioni, praticammo un foro nel fondo del barile e di lì tracciammo, con fili d'erba tritata e miele, una strada il più possibile nascosta, dietro botti e attrezzi della cantina, per attrarre le lumache sulla via della fuga, fino a una finestrella che dava in un'aiola incolta e sterposa. E il giorno dopo, quando scendemmo in cantina a controllare gli effetti del nostro piano e a lume di candela ispezionammo i muri e gli anditi, una qui e un'altra qua, e vedi questa dove è arrivata? Già una fila di lumache a non lunghi intervalli percorreva dal barile alla finestrella il pavimento e i muri, seguendo la nostra traccia. «Presto, lumachine! Fate presto, scappate!» Non potemmo trattenerci dal dir loro, vedendo le bestiole andare lemme lemme, non senza deviare in giri oziosi sulle ruvide pareti della cantina, attratte da occasionali depositi e muffe e ingommature. Ma la cantina era buia, ingombra, accidentata. Speravamo che nessuno potesse scoprirle, che avessero il tempo di scappare tutte. Invece, quell'anima senza pace di nostra sorella Battista percorreva la notte tutta la casa a caccia di topi, reggendo un candeliere e con lo schioppo sotto il braccio. Passò in cantina quella notte e la luce del candeliere illuminò una lumaca sbandata sul soffitto con la scia di bava argentea. Risuonò una fucilata, tutti nei letti sobbalzammo, ma subito dopo riaffondammo il capo nei guanciali, avvezzi come eravamo alle cacce notturne della monaca di casa. Ma Battista, distrutta la lumaca e fatto crollare un pezzo d'intonaco con quella schioppettata irragionevole, cominciò a gridare con la sua vocetta stridula: «Aiuto! Scappano tutte! Aiuto!» Accorsero i servi mezzo spogliati, nostro padre armato d'una sciabola, l'abate senza parrucca, e il cavaliere avvocato, prima ancora di capir nulla, per paura di seccature, scappò nei campi e andò a dormire in un pagliaio. Al chiaror delle torce, tutti si misero a dar la caccia alle lumache per la cantina, sebbene a nessuno stessero a cuore, ma ormai erano svegli e non volevano, per il solito amor proprio, ammettere di essere stati disturbati per nulla. Scoprirono il buco nel barile e capirono subito che eravamo stati noi. Nostro padre ci venne ad agguantare in letto con la frusta del cocchiere. Finimmo ricoperti di striature viola sulla schiena, le natiche e le gambe, chiusi nello stanzino squallido che ci faceva da prigione. Ci tennero lì 3 giorni. A pane, acqua, insalata, cotene di bue e minestrone freddo, che fortunatamente ci piaceva. Poi, primo pasto in famiglia, come niente fosse stato, tutti a puntino, quel mezzogiorno del 15 giugno. E cosa aveva preparato nostra sorella Battista, sovrintendente alla cucina? Zuppa di lumache e pietanza di lumache. Cosimo non volle toccare neanche un guscio. «Mangiate o subito vi rinchiudiamo nello stanzino!» Io cedetti e cominciai a trangugiare quei molluschi. Fu un po' una viltà da parte mia e fece sì che mio fratello si sentisse più solo, cosicché nel suo lasciarci c'era anche una protesta contro di me, che l'avevo deluso. Ma avevo solo 8 anni, e poi a che vale paragonare la mia forza di volontà, anzi quella che potevo avere da bambino, con l'ostinazione sovrumana che contrassegnò la vita di mio fratello? «E allora?» disse a nostro padre a Cosimo. «No e poi no», fece Cosimo. E respinse il piatto. «Via da questa tavola!» Ma già Cosimo aveva voltato le spalle a tutti noi e stava uscendo dalla sala. «Dove vai?» Lo vedevamo dalla porta a vetri, mentre nel vestibolo prendeva il suo tricorno e il suo spadino. «Lo so io!» Corse in giardino. Di lì a poco, dalle finestre, lo vedemmo che s'arrampicava su per l'elce. Era vestito e acconciato con grande proprietà, come nostro padre voleva venisse a tavola, nonostante i suoi 12 anni. Capelli incipriati col nastro al codino, tricorno, cravatta di pizzo, marsina verde a code, calzonetti color malva, spadino e lunghe ghette di pelle bianca a mezza coscia, unica concessione a un modo di vestirsi più intonato alla nostra vita campagnola. Io, avendo solo 8 anni, ero esentato dalla cipria sui capelli, se non nelle occasioni di gala, e dallo spadino, che pure mi sarebbe piaciuto portare. Così egli saliva per il nodoso albero, muovendo braccia e gambe per i rami, con la sicurezza e la rapidità che gli venivano dalla lunga pratica fatta insieme. Ho già detto che sugli alberi noi trascorrevamo ore e ore, e non per motivi utilitari come fanno tanti ragazzi, che ci salgono solo per cercar frutta o nidi d'uccelli, ma per il piacere di superare difficili bugne del tronco e inforcature e arrivare più in alto che si poteva e trovare bei posti dove fermarci a guardare il mondo laggiù, a fare scherzi e voci a chi passava sotto. Trovai quindi naturale che il primo pensiero di Cosimo a quell'ingiusto accanirsi contro di lui fosse stato d'arrampicarsi sull'elce, albero a noi familiare, e che, protendendo i rami all'altezza delle finestre della sala, imponeva il suo contegno sdegnoso e offeso alla vista di tutta la famiglia. «Vorsicht! Vorsicht! Ora casca, poverino!» esclamò piena d'ansia nostra madre, che ci avrebbe visto volentieri alla carica sotto le cannonate, ma intanto stava in pena per ogni nostro gioco. Cosimo salì fino alla forcella d'un grosso ramo, dove poteva stare comodo, e si sedette lì, a gambe penzoloni, a braccia incrociate con le mani sotto le ascelle, la testa insaccata nelle spalle, il tricorno calcato sulla fronte. Nostro padre si sporse dal davanzale. «Quando sarai stanco di stare lì cambierai idea», gli gridò. «Non cambierò mai idea», fece mio fratello dal ramo. «Ti farò vedere io appena scendi, e io non scenderò più». E mantenne la parola. Cosimo era sull'elce. I rami si sbracciavano, alti punti sopra la terra. Tirava un lieve vento, c'era sole. Il sole era tra le foglie e noi per vedere Cosimo dovevamo farci schermo con la mano. Cosimo guardava il mondo dall'albero. Ogni cosa, vista di lassù, era diversa e questo era già un divertimento. Il viale aveva tutta un'altra prospettiva e le aiole, le ortensie, le camelie, il tavolino di ferro per prendere il caffè in giardino. Più in là le chiome degli alberi si sfittivano e l'ortaglia digradava in piccoli campi a scala, sostenuti da muri di pietre. Il dosso era scuro di oliveti, e dietro l'abitato d'Ombrosa sporgeva i suoi tetti di mattone sbiadito e ardesia, e ne spuntavano pennoni di bastimenti laddove sotto c'era il porto. In fondo si stendeva il mare, alto d'orizzonte, ed un lento veliero vi passava. Ecco che il barone e la generalessa, dopo il caffè, uscivano in giardino. Guardavano un rosaio, stentavano di non badare a Cosimo, si davano il braccio, ma poi subito si staccavano per discutere e far gesti. Io venni sotto l'elce, invece, come giocando per conto mio, ma in realtà cercando d'attirare l'attenzione di Cosimo. Lui però mi serbava rancore e restava lassù a guardar lontano. Smisi e m'accoccolai dietro una panca per poter continuare a osservarlo senza essere veduto. Mio fratello stava come di vedetta. Guardava tutto e tutto era come niente. Tra i limoneti passava una donna con un cesto. Saliva un mulattiere per la china, reggendosi alla coda della mula. Non si videro tra loro. La donna, al rumore degli zoccoli ferrati, si voltò e si sporse verso strada, ma non fece in tempo. Si mise a cantare allora, ma il mulattiere passava già la svolta, tese l'orecchio, schioccò la frusta e alla mula disse «Ah!» e tutto finì lì. Cosimo vedeva questo e quello. Per il viale passò l'abate Fauchelevent, col breviario aperto. Cosimo prese un qualcosa dal ramo e glielo lasciò cadere in testa. Non capì cos'era, forse un ragnetto o una scheggia di scorza. Non lo prese. Con lo spadino Cosimo si mise a frugare in un buco del tronco. Ne uscì una vespa arrabbiata. Lui la cacciò via sventolando il tricorno e ne seguì il volo con lo sguardo fino ad una pianta di zucche dove s'acquattò. Veloce come sempre, il cavaliere avvocato uscì di casa, prese per le scalette del giardino e si perse tra i filari della vigna. Cosimo, per vedere dove andava, s'arrampicò su un altro ramo. Lì, di tra il fogliame, s'udì un frullo e s'alzò a volo un merlo. Cosimo ci restò male perché era stato lassù tutto quel tempo e non se l'era accorto. Stette a guardare contro sole se ce n'erano degli altri. No, non ce n'erano. L'elce era vicino a un olmo. Le due chiome quasi si toccavano. Un ramo dell'olmo passava a mezzo metro sopra un ramo dell'altro albero. Fu facile a mio fratello fare il passo e così conquistare la sommità dell'olmo, che non avevamo mai esplorato per essere alto di palco e poco arrampicabile da terra. Dall'olmo, sempre cercando dove un ramo passava gomito a gomito con i rami di un'altra pianta, si passava su un carrubo e poi su un gelso. Così vedevo Cosimo avanzare da un ramo all'altro, camminando sospeso sul giardino. Certi rami del grande gelso raggiungevano e scavalcavano il muro di cinta della nostra villa, e di là c'era il giardino dei Dondariva. Noi, benché confinanti, non sapevamo nulla dei marchesi Dondariva e nobili d'Ombrosa, perché godendo essi da parecchie generazioni di certi diritti feudali su cui nostro padre vantava pretese, un astio reciproco divideva le due famiglie. Così come un muro alto, che pareva un mastio di fortezza, divideva le nostre ville, non so se fatto erigere da nostro padre o dal marchese. S'aggiunga a ciò la gelosia di cui gli Ondariva circondavano il loro giardino, popolato, a quanto si diceva, di specie di piante mai vedute. Infatti, di già il padre degli attuali marchesi, discepolo di Linneo, aveva mosso tutte le vaste parentele che la famiglia contava alle corti di Francia e d'Inghilterra per farsi mandare le più preziose rarità botaniche delle colonie, e per anni i bastimenti avevano sbarcato a Ombrosa sacchi di semi, fasci di talee, arbusti in vaso e perfino alberi interi con enormi involti di pan di terra attorno alle radici. Finché in quel giardino era cresciuta, dicevano, una mescolanza di foreste delle Indie e delle Americhe, se non addirittura della Nuova Olanda. Tutto quel che ne potevamo vedere noi era l'affacciarsi all'orlo del muro delle foglie oscure di una pianta nuovamente importata dalle colonie americane, la magnolia, che sui rami neri sporgeva un carnoso fiore bianco. Dal nostro gelso Cosimo fu sulla cornice del muro, fece qualche passo in equilibrio e poi, tenendosi con le mani, si calò dall'altra parte, dove erano le foglie e il fiore di magnolia. Di lì scomparve alla mia vista. E quello che ora dirò, come molte delle cose di questo racconto della sua vita, mi furono riferite da lui in seguito, oppure fui io a ricavarle da sparse testimonianze ed induzioni. Cosimo era sulla magnolia. Benché fitta di rami questa pianta, era ben praticabile a un ragazzo esperto di tutte le specie d'alberi come mio fratello. E i rami resistevano al peso, ancorché non molto grossi, ed un legno dolce che la punta delle scarpe di Cosimo sbucciava, aprendo bianche ferite nel nero della scorza. Ed avvolgeva il ragazzo in un profumo fresco di foglie, come il vento le muoveva, voltandone le pagine in un verdeggiare ora opaco, ora brillante. Ma era tutto il giardino che odorava, e se Cosimo ancora non riusciva a percorrerlo con la vista, tanto era irregolarmente folto, già lo esplorava con l'olfatto e cercava di discernerne i vari aromi, che pur gli erano noti da quando, portati dal vento, giungevano fino al nostro giardino e ci parevano una cosa sola col segreto di quella villa. Poi guardava le fronde e vedeva foglie nuove, quali grandi e lustre come ci corresse sopra un velo d'acqua, quali minuscole e pennate, e tronchi tutti lisci o tutte scaglie. C'era un gran silenzio. Solo un volo si levò di piccolissimi lui, gridando. E si sentì una vocetta che cantava. «Oh la la la, la balançoire!» Cosimo guardò giù. Appesa al ramo d'un grande albero vicino dondolava un'altalena, con seduta una bambina sui 10 anni. Era una bambina bionda, con un'alta pettinatura un po' buffa per una bimba, con un vestito azzurro anche quello troppo da grande, la gonna che ora sollevata sull'altalena traboccava di trine. La bambina guardava occhi socchiusi e naso in su, come per un sovezzo di far la dama, e mangiava una mela a morsi, piegando il capo ogni volta verso la mano che doveva insieme reggere la mela e reggersi alla fune dell'altalena, e si dava spinte colpendo con la punta degli scarpini il terreno ogni volta che l'altalena era al punto più basso del suo arco, e soffiava via dalle labbra i frammenti di buccia di mela morsicata, e cantava «Oh la la la, la balançoire!» come una ragazzina che ormai non le importa più nulla né dell'altalena, né della canzone, né, ma pure un po' di più, della mela, e ha già altri pensieri per il capo. Cosimo, d'incima alla magnolia, era calato fino al palco più basso, ed ora stava coi piedi piantati uno qua, uno là, in due forcelle, e i gomiti appoggiati a un ramo davanti a lui, come un davanzale. I voli dell'altalena gli portavano la bambina proprio sotto il naso. Lei non stava attenta e non se n'era accorta. Tutto un tratto se lo vide lì, ritto sull'albero, in tricorno e ghette. «Oh!» disse. La mela le cadde di mano e rotolò al piede della magnolia. Cosimo sguainò lo spadino, s'abbassò giù dall'ultimo ramo, raggiunse la mela con la punta dello spadino, la infilzò e la porse alla bambina, che nel frattempo aveva fatto un percorso completo dell'altalena ed era di nuovo lì. «La prenda! Non sei sporcata! È solo un po' ammaccata da una parte!» La bambina bionda s'era già pentita d'aver mostrato tanto stupore per quel ragazzetto sconosciuto apparso lì sulla magnolia e aveva ripreso la sua aria sussiegosa naso in su. «Siete un ladro?» disse. «Un ladro?» fece Cosimo offeso. Poi ci pensò su. Lì per lì l'idea gli piacque. «Io sì!» disse, calcandosi il tricorno sulla fronte. «Qualcosa in contrario?» «E cosa siete venuto a rubare?» Cosimo guardò la mela che aveva infilzato sulla punta dello spadino. E gli venne in mente che aveva fame, che non aveva quasi toccato cibo in tavola. «Questa mela!» disse, e prese a sbucciarla con la lama dello spadino che teneva, a dispetto dei divieti familiari, affilatissima. «Allora siete un ladro di frutta!» disse la ragazza. Mio fratello pensò alle masnade dei ragazzi poveri d'Ombrosa, che scavalcavano i muri e le siepi e saccheggiavano i frutteti, una genia di ragazzi che gli era stato insegnato di disprezzare e di sfuggire. E per la prima volta pensò a quanto doveva essere libera e invidiabile quella vita. Ecco, forse poteva diventare uno come loro e vivere così d'ora in avanti. «Sì», disse. Aveva tagliato a spicchi la mela e si mise a masticarla. La ragazzina bionda scoppiò in una risata che durò tutto un volo d'altalena su e giù. «Ma va! I ragazzi che rubano la frutta io li conosco, sono tutti i miei amici. E quelli vanno scalzi, in maniche di camicia, spettinati, non con le ghette e il parrucchino». Mio fratello diventò rosso come la buccia della mela. L'essere preso in giro, non solo per l'incipriatura, cui non teneva affatto, ma anche per le ghette, cui teneva moltissimo, e l'essere giudicato d'aspetto inferiore a un ladro di frutta, a quella genia fino a un momento prima disprezzata, e soprattutto lo scoprire che quella damigella, che faceva da padrona nel giardino dei Don Dariva, era amica di tutti i ladri di frutta, ma non amica sua, tutte queste cose insieme lo riempirono di dispetto, vergogna e gelosia. «Oh la la la! Con le ghette il parrucchin!» canterellava la bambina sull'altalena. A lui prese un ripicco d'orgoglio. «Non sono un ladro di quelli che conoscete voi!» gridò. «Non sono affatto un ladro! Dicevo così per non spaventarvi, perché se sapeste chi sono io sul serio morireste di paura! Sono un brigante, un terribile brigante!» La ragazzina continuava a volargli fin sul naso. Si sarebbe detto volesse arrivare a sfiorarlo con la punta dei piedi. «Ma va! E dov'è lo schioppo? I briganti hanno tutti lo schioppo. O la spingarda. Io li ho visti. A noi ci hanno fermato 5 volte la carrozza nei viaggi dal castello a qua. Ma il capo no. Io sono il capo. Il capo dei briganti non ha lo schioppo, ha solo la spada». E protese il suo spadino. La ragazzina si strinse nelle spalle. «Il capo dei briganti», spiegò, «è uno che si chiama Gian dei Brughi e viene sempre a portarci dei regali a Natale e a Pasqua». «Ah!» esclamò Cosimo di Rondò, raggiunto da un'ondata di faziosità familiare. «Allora ha ragione mio padre quando dice che il marchese Don Dariva è il protettore di tutto il brigantaggio e il contrabbando della zona». La bambina passò vicino a terra. Invece di darsi la spinta, frenò con un rapido sgambettio e saltò giù. L'altalena vuota sobbalzò in aria sulle corde. «Scendete subito di lassù! Come vi siete permesso d'entrare nel nostro terreno?» fece, puntando un indice contro il ragazzo incattivita. «Non sono entrato e non scenderò», disse Cosimo con pari calore. «Sul vostro terreno non ho mai messo piede e non ce lo metterei per tutto l'oro del mondo». La ragazzina allora, con gran calma, prese un ventaglio che era posato su una poltrona di vimini e, sebbene non facesse molto caldo, si sventolò passeggiando avanti e indietro. «Adesso», fece con tutta calma, «chiamerò i servi e vi farò prendere e bastonare, così imparerete a intrufolarvi nel nostro terreno». Cambiava sempre tono questa bambina, e mio fratello tutte le volte restava stonato. «Dove sono io non è terreno e non è vostro», proclamò Cosimo. E già gli veniva la tentazione di aggiungere: «E poi io sono il duca d'Ombrosa e sono il signore di tutto il territorio». Ma si trattenne, perché non gli piaceva di ripetere le cose che diceva sempre suo padre, adesso che era scappato via da tavola e lite con lui. Non gli piaceva e non gli pareva giusto, anche perché quelle pretese sul ducato gli erano sempre parse fissazioni. Che c'entrava che ci si mettesse anche lui, Cosimo, ora a millantarsi duca? Ma non voleva smentirsi e continuò il discorso come gli veniva. «Qui non è vostro», ripeté. perché vostro il suolo. E se ci posassi un piede, allora sarei uno che si intrufola. Ma quassù no. E io vado dappertutto dove mi pare. Sì, allora è tuo lassù. Certo, territorio mio personale, tutto quassù. E fece un vago gesto verso i rami, le foglie controsole, il cielo. Sui rami degli alberi è tutto mio territorio. Di che vengano a prendermi se ci riescono? Adesso, dopo tante rodomontate, s'aspettava che lei lo prendesse in giro chissà come. Invece si mostrò imprevedibilmente interessata. Ah sì? E fin dove arriva questo tuo territorio? Tutto fin dove si riesce ad arrivare andando sopra gli alberi, di qua, di là, oltre il muro, nell'oliveto, fin sulla collina, dall'altra parte della collina, nel bosco, nelle terre del vescovo, anche fino in Francia. Fino in Polonia e in Sassonia, disse Cosimo, che di geografia sapeva solo i nomi sentiti da nostra madre, quando parlava delle guerre di successione. Ma io non sono egoista come te, io nel mio territorio ti ci invito. Ormai erano passati a darsi del tu tutte e due, ma era lei che aveva cominciato. «E l'altalena di chi è?» disse lei. E ci si sedette col ventaglio aperto in mano. «L'altalena è tua», stabilì Cosimo. «Ma siccome è legata a questo ramo, dipende sempre da me. Quindi se tu ci stai mentre tocchi terra coi piedi, stai nel tuo. Se ti sollevi per aria, sei nel mio». Lei si dette la spinta e volò, le mani strette alle funi. Cosimo dalla magnolia saltò sul grosso ramo che reggeva l'altalena e di là afferrò le funi e si mise lui a farla dondolare. L'altalena andava sempre più in su. «Hai paura?» «Io no. Come ti chiami?» «Io Cosimo, e tu?» «Violante, ma mi dicono Viola. A me mi chiamano Mino, anche perché Cosimo è un nome da vecchi. Non mi piace. Cosimo?» «No, Mino. Ah, puoi chiamarmi Cosimo.» «Neanche per idea. Senti tu, dobbiamo fare patti chiari.» «Come dici?» fece lui, che continuava a restarci male ogni volta. «Dico, io posso salire nel tuo territorio e sono un ospite sacra, va bene?» «Entro ed esco quando voglio. Tu, invece, sei sacro e inviolabile finché sei sugli alberi, nel tuo territorio, ma appena tocchi il suolo del mio giardino diventi mio schiavo e vieni incatenato.» «No, io non scendo nel tuo giardino e nemmeno nel mio. Per me è tutto territorio nemico ugualmente. Tu verrai su con me e verranno i tuoi amici che rubano la frutta, forse anche mio fratello Biagio, sebbene sia un po' vigliacco, e faremo un esercito tutto sugli alberi e ridurremo alla ragione la terra e i suoi abitanti.» «No, no, no, niente di tutto questo. Lascia che ti spieghi come stanno le cose. Tu hai la signoria degli alberi, va bene? Ma se tocchi una volta terra con un piede, perdi tutto il tuo regno e resti l'ultimo degli schiavi, hai capito? Anche se ti si spezza un ramo e caschi, tutto perduto.» «Io non sono mai caduto da un albero in vita mia.» «Certo, ma se caschi diventi cenere e il vento ti porta via.» «Tutte storie. Io non vado a terra perché non voglio.» «Oh, come sei noioso! No, no, no, no, giochiamo. Per esempio, sull'altalena potrei starci? Se ti riuscisse di sederti sull'altalena senza toccare terra, sì.»